Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Susanna Tamaro, ora in libreria con Ogni angelo è tremendo, pubblicato da Bompiani. In questo romanzo si racconta un po' la storia della sua vita, praticamente dall'infanzia in poi, quindi è un romanzo molto intimo in cui racconta cose molto private di sé, in qualche modo le dà in pasto ai lettori. Come mai ha deciso in questo momento della sua vita di raccontare così tanto di sé? Ma è un po' stato casuale, nel senso che mi è stato chiesto di scrivere un saggio su Trieste e la letteratura. E io non sono provata, ma non sono una saggista, dunque mi è venuto spontaneo incominciare a parlare di me per parlare di Trieste, della letteratura. E poi è venuto questo libro, che è una biografia breve, perché finisce a 22 anni, quando scopro che la mia vocazione è la scrittura, e mi interessava raccontare il percorso attraverso il quale un bambino scopre di essere un artista, scopre la sensibilità in sé, scopre le sue doti, perché per un musicista è facile capire che ha talento, per un bambino, ma per uno scrittore non c'è molte vie per dimostrare, che anche per lui stesso, di capire che in futuro sarà uno scrittore, un poeta. Dunque alle volte è un percorso di grande solitudine, di grande difficoltà. Dunque, questo libro può aiutare anche tante persone che hanno avuto sensibilità eccessive a capire la loro strada. E poi non sono fatti intimi, nel senso che racconto soltanto quello che è necessario per capire questa strada dello scrittore. E in più la maggior parte dei miei genitori sono morti, dunque non l'avrei fatto se i miei genitori fossero vivi, naturalmente, no? Ma non perché sia niente di scandaloso, ma per un fatto di rispetto nei loro confronti. Forse quando avrò 90 anni farò la mia vera biografia di tutta la vita, ma questo è solo, come dire, un antipasto della biografia. E poi non ho mai parlato della mia vita intima, della mia vita sentimentale, cioè ho raccontato soltanto quello che era necessario per illuminare questa parte della scrittura. Lei racconta molto però della sua vita familiare. A proposito dei genitori, il ritratto che esce fuori dei suoi genitori non è dei migliori, nel senso che insomma, soprattutto suo padre, ma anche sua madre, vengono descritte come persone insensibili o quantomeno fredde nei suoi confronti, incapaci di comprendere la sua interiorità di bambina. Sì, credo che sia stata una miscela veramente esplosiva, nel senso che io ero una bambina ipersensibile e loro erano genitori per niente sensibili, dunque questa cosa ha creato veramente un grande problema. I miei genitori erano cresciuti durante la guerra e credo che questo abbia molto influito sulla loro personalità. Erano persone veramente con dei grossi problemi. E questo si capisce da tutti i miei libri, anche questa, senza la mia biografia, tutti i miei libri precedenti, si capisce che io non ho avuto un'infanzia felice. E questa volta finalmente ho raccontato quella vera, non quella mediata dalla letteratura. Io ho avuto, naturalmente avere dei genitori così difficili, così anaffettivi, così distanti, crea un grande vuoto, un grande dolore dentro. Però in questo senso penso che il libro può essere anche un libro, insomma, interessante per molti. Questo dolore bisogna imparare a elaborarlo e a farlo diventare qualcosa di positivo, no? Non si può portare questa pietra dentro di sé tutta la vita e dunque bisogna imparare a perdonare poi i genitori, a vedere alla fine quanto la loro vita è stata disperata. Lei racconta che da bambina soffriva moltissimo di insonnia, una cosa che si è portata dietro, e soprattutto le notti, diciamo, dell'infanzia erano popolate di mostri. Questo in qualche modo ha aiutato anche la sua fantasia o è stato solo un danno? No, credo sia stato solo un danno, perché poi la mia fantasia non è una fantasia molto, molto fantasy, è una fantasia molto legata alle cose concrete, al mondo in cui io racconto. È stato un danno, era una grande angoscia, e poi in quegli anni lì, parliamo anni 50, anni 60, diciamo, non c'era questi bambini, tutta questa attenzione che c'è adesso. Un bambino così era un bambino predestinato al manicomio, non era un bambino che magari andava seguito con un po' più di attenzione. E io sono cresciuta veramente col terrore di questi mostri notturni e tuttora soffro di insonnia, ahimè. Mi ha fatto molto tenerezza la parte in cui descrive il rapporto con suo fratello maggiore, perché in parte mi sono anche ritrovata, insomma, quando si è piccole si dà al fratello maggiore la massima fiducia, ci si affida completamente. Sono divertenti le parti dove lei racconta appunto che suo fratello le diceva delle cose sul futuro, sul 2000, nel 2000 succederà questo, e lei ci credeva ciecamente. Che rapporto aveva con suo fratello? Ma con mio fratello ho avuto un rapporto e ho tuttora un rapporto molto stretto, siamo molto vicini di età e poi c'era, essendo cresciuti in una famiglia piuttosto disastrata, tra i fratelli spesso si crea un attaccamento maggiore rispetto alle famiglie più armoniche. Dunque siamo sopravvissuti a una catastrofe e come sopravvissuti a una catastrofe abbiamo quella solidarietà di quelli che no, sopravvissuti al Titanic. E dunque siamo molto legati. Lui da bambino era molto crudele, come spesso i fratelli maschi maggiori, ma questa crudeltà alternava anche momenti, cioè la crudeltà legata a questo stava un grande affetto. Mi ha sottoposto a ogni tipo di sevizie, credo di essere un miracolo se ancora viva, e soprattutto io credevo a tutto. Se mi avesse detto se ti butti dalla finestra voli, io mi sarei buttata, ma come spesso succede alle sorelline che vedono nel fratello il mito irraggiungibile. A proposito di volo, il sogno di volare è tipico dell'adolescenza, insomma, di chi vuole appunto assumere una certa indipendenza. Lei però questo desiderio di volare ce l'aveva fin da piccolissima. Sì, io desideravo volare personalmente, però non nel sogno. Ho fatto molti tentativi nel cortile dove sono cresciuta con ali, sbattendo, saltando. Insomma, ero convinta che se mi concentravo veramente in maniera intensa e con alcuni accorgimenti leonardeschi avrei potuto volare. Ogni tanto mi sembrava di fare dei piccoli, diciamo, hai visto? Ho volato un pezzettino. E ora da adulta sogni ancora di volare, almeno nel sogno o no? No, ho completamente perso il desiderio di volare e non amo neanche volare con gli aerei. L'altra cosa che lei racconta in questo romanzo, insomma in questa storia della sua infanzia e della sua giovinezza, è che da piccola era un po' ossessionata dal concetto della morte. Ce lo vuole un po' raccontare? Sì, io pensavo costantemente alla morte e questo è uno dei primi pensieri che ricordo di aver avuto, che uno sembra un pensiero un po' pazzesco, adesso che immaginiamo i bambini come delle creature sempre sorridenti, sempre no, così molto infantili, ma in realtà molti bambini hanno questa idea, moltissimi, perché appena uno entra in contatto con la realtà si domanda perché tutto finisce, qual è il senso di questa scomparsa delle persone o anche degli animali, delle cose. Dunque, mi sembra che interrogarsi sulla morte sia il primo punto per diventare poi degli esseri umani completi. Io ho cominciato a farlo, non so, a 3 anni, a 2 anni. Il primo pensiero di cui ho memoria è interrogarsi sulla morte. Però vedevo che a nessuno intorno interessava questo argomento. Mi sentivo un po' così solitaria in queste lucubrazioni perché intorno era un argomento assolutamente sconosciuto. È stata quindi una ricerca delle domande che si è fatta da sola e forse si è data anche delle risposte da sola. Oggi che risposta si dà a questa domanda? Ma credo che tutti i miei libri in fondo siano un tentativo di rispondere alle domande che mi sono fatta da bambina. E dunque tutti i miei libri sono un'interrogazione sulla morte e dunque sul senso della vita principalmente. E alla fine penso che questa vita che viviamo è solo una parte della vita. In noi ci sono delle energie, delle forze straordinarie nascoste nella nostra profondità che probabilmente ci trasformeranno in un'altra forma di vita dopo la morte, di questo sono abbastanza convinta, noi ma anche gli animali, anche tutte le forme viventi. Adesso ho una grande, non desidero assolutamente morire, anzi più tardi sarà, meglio sarà, ma ho una grande curiosità di sapere cosa c'è dopo la morte. Leggendo questo libro ho avuto l'idea che lei sia stata una bambina così sensibile da non avere in qualche modo delle protezioni, cioè quasi fosse invasa da quello che succedeva fuori, guardava le piante morire, insomma anche la natura, lei tuttora è molto sensibile sui temi diciamo ecologici. Col passare del tempo, crescendo, è riuscita a farsi scudo o si fa ancora invadere da quello che avviene fuori? No, purtroppo non sono riuscita a farmi grandi scudi, sono tuttora una persona molto iper sensibile e mi ferisce tutto quello che vedo, tutto quello che sento. E questa è una delle ragioni anche per cui faccio una vita anche abbastanza protetta, non faccio una vita molto, molto esibita, molto fuori, faccio una vita molto ritirata, perché non riesco a reggere l'impatto con la realtà come riescono insomma, le persone, tra virgolette, normali. Lei reagisce male, per esempio, alle critiche sui suoi libri? No, perché non le ho quasi mai lette, ma penso che sono persone che non hanno mai letto neanche i miei libri. A questo proposito mi viene in mente Va dove ti porta il cuore, perché lei ne parla in questo nuovo romanzo, dicendo appunto che molti giornalisti non avevano neanche letto il libro e facevano commenti, pensavano che lei fosse una vecchia, ormai morta, insomma c'è stato tutto un grande dire su quel libro. Che cosa rappresenta oggi per lei quel libro? Ma quel libro è un libro per me molto importante perché è stato il mio libro più famoso, il libro anche che mi ha dato la sicurezza economica, che è una cosa tutt'altro che disprezzabile visto che io venivo da un passato di grande precarietà economica. È un libro che ha parlato a tutto il mondo, dunque questo per uno scrittore è un'emozione straordinaria. Naturalmente non è il mio libro più complesso, che Anima Mundi è un libro molto più complesso, però è un libro che ha, uno lo può rileggere ogni 5, 6, 7 anni, è un libro che ha sempre qualcosa, è come una miniera che non si esaurisce mai, ha sempre qualcosa da dare. A me capita ogni tanto per motivi di lavoro di dover rileggere delle pagine, eccetera, e dico ma guarda c'è anche questo nel libro, c'è anche questo. Dunque nonostante le pagine che non sono, insomma non è un libro grosso, ma è veramente una scatola cinese in cui c'è sempre un altro orizzonte da scoprire, e questo penso che fa di un libro, insomma, da un libro la ricchezza di un classico. Sicuramente Va dove ti porta il cuore è diventato un long seller, insomma, è uno dei libri italiani più venduti sia da noi che all'estero. Ma dal punto di vista prettamente professionale, l'averlo scritto, insomma, da giovanissima, aver venduto così tante copie, aver creato anche molte aspettative nei suoi confronti, le è pesato e le pesa tuttora o ormai è una cosa, insomma, superata? No, dunque mi ha pesato. Io per fortuna sono stata così saggia da non pensare mai di voler replicare il successo che porto al cuore, una cosa che ha deluso molti, ma io non sono appunto una seriale, non sono una scrittrice bestseller, sono una scrittrice che ha avuto la fortuna di scrivere un bestseller, che è tutta un'altra questione naturalmente, no? Dunque non ho mai voluto replicare. E, adesso naturalmente per molti sono... Molti pensano che sia l'unico libro che ho scritto, mi capita, tipo, ho letto il suo libro, ma io ne ho scritti 20 di libri, no? Cioè quando uno si è un bestseller è un po' condannato a questa, diciamo, questa visione per cui il suo libro è quello. Però no, è un libro verso il quale continuo ad avere una grande gratitudine, e penso che è un libro poi che va avanti con le generazioni, insomma è una cosa molto bella. Lei in questo nuovo romanzo dice anche che non scrive mai su commissione, cioè che ha un rapporto molto viscerale con la scrittura, scrive solo nel momento in cui ha voglia. Ci vuole un po' spiegare questa cosa? Sì, io non se dovessi scrivere per commissione scriverei peggio che un tema di prima liceo, di un cattivo studente, non sono assolutamente capace di scrivere su commissione. All'inizio ho provato perché non sapevo di avere questa incapacità, poi ho detto no, meglio che non lo faccio. Io scrivo quando sento una forte esigenza di raccontare qualcosa, di parlare di qualcosa, di affrontare un argomento che a me personalmente interessa. E dunque scelgo un argomento e poi lentamente costruisco una storia nella mia testa, ma sono processi molto lenti, molto lunghi e anche molto misteriosi, perché la creatività è un mistero veramente. E poi quando scrivo sono di una rapidità eccezionale, io scrivo in pochissimo tempo i miei libri, li scrivo esattamente come poi vengono letti, no? Non faccio lavori, cioè quando comincio a scrivere il libro è già perfetto, non taglio, non accorcio, non modifico niente, insomma. Prima diceva che forse a 90 anni scriverà la sua vera biografia, insomma, la biografia di un'altra parte della sua vita, parlerà dei suoi sentimenti, insomma, possiamo aspettarci un po' prima che lei ci parli della sua intimità o la tiene veramente così riservata? Ma sì, la mia vita è molto privata in questo senso, anche perché tutte le persone coinvolte sono ancora vive, dunque non posso, insomma, non desidero coinvolgerle in una cosa che potrebbe non essere piacevole. Scriverò sicuramente, almeno questo sarebbe il mio intento, scrivere nel giro, insomma, diciamo, entro i 60 anni, che non sono così lontani, vorrei scrivere la mia biografia spirituale, perché io ho praticato tanti anni arti marziali, insomma, ho fatto un lungo cammino orientale, occidentale, di riflessione sulla morte, appunto, partendo dalle insonnie infantili, e penso che tra un po' sarà il momento di scrivere queste riflessioni. Grazie a Susanna Tamaro, ora in libreria con Ogni angelo è tremendo, pubblicato da Bompiani. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.